Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. L'automobile come specchio del suo possessore, dei suoi gusti, certo, ma anche del suo carattere, sportivo, elegante, sobrio. Per Marco Belpoliti, il colore dell'auto può raccontare anche qualcosa di più. Non so se ve ne siete accorti, ma il colore che sta superando il grigio nel parco macchine italiano è il nero. Sempre più spesso si vedono automobili di questo colore, così che la maggioranza delle auto in circolazione oggi sono nere, grigie o bianche. Pochi i veicoli rossi, rari quelli gialli, più frequenti ma in minoranza i verdi. L'azzurro rarissimo. Le auto sono sempre meno colorate, almeno al nord, mentre al centro e al sud c'è più colore. Scomparsi i colori profondi degli anni 90, si ritorna forse al nero del modello T della Ford? La prima automobile prodotta alla catena di montaggio nel 1908? Il nero indica eleganza e insieme riservatezza. Nere sono le auto ministeriali, dei top manager, dei potenti, ambasciatori, ministri, capi di Stato. Nere con vetri fumé le vetture dei boss della mala, cinese e russa. Il nero è sempre stato un colore che dissolve tutto ciò che la coscienza considera reale e prezioso, scrive James Hillman. Per questo è il colore preferito dai riformatori religiosi e politici, ma anche di adolescenti, ribelli, pirati, signori della notte, seguaci dei riti satanici, puritani, anarchici, preti. Insomma, tutti i non conformisti, scrive Hillman. Che sia questo il significato delle automobili nere che vediamo circolare sulle nostre strade? Quando un'auto con questo colore s'affianca alla nostra, si prova immediatamente un piccolo sussulto. Si percepisce qualcosa d'aggressivo nella manovra del veicolo nero, una minaccia, seppur larvata. È questo il messaggio che vogliono darci vetture che possiedono, indipendentemente dalla forma, qualcosa degli squali? Nel corso dell'ultimo decennio, la forma delle automobili si è arrotondata. Ora però, il nero fa assumere un significato differente alle forme morbide. Paradossalmente, le rende spigolose, acute. Siamo entrati in un'epoca in cui far paura è più importante che provarla? Probabile. L'automobile è solo un sintomo. Beep, beep, beep, beep, yeah! Avete ascoltato la lettura di Il boom dell'auto nera, a firma di Marco Belpoliti e pubblicato dalla Stampa di lunedì 17 giugno. Lunedì scorso il Corriere della Sera ha pubblicato un editoriale di Giovanni Sartori in cui il politologo sostiene che il governo Letta è formato, per una metà, da ministri e sottosegretari inadatti agli incarichi loro assegnati, semplicemente perché chiamati ad occuparsi di cose che non sanno. Il governo Monti era un po' raccogliticcio, anche perché Monti non apparteneva al giro dei nostri politici. E di molti di loro sapeva poco. Ma Letta i nostri politici li conosce, è del mestiere. Eppure ha messo insieme un governo brancaleone da primato. Grosso modo, metà dei suoi ministri e sottosegretari sono fuori posto. Sono chiamati ad occuparsi di cose che non sanno. Al momento mi occuperò solo di un caso che mi sembra di particolare importanza. Il caso della ministra nera Khieng Kashetu, nominata ministro per l'integrazione. Nata in Congo, si è laureata in Italia in medicina e si è specializzata in oculistica. Cosa ne sa di integrazione, di ius soli e correlativamente di ius sanguinis? La nostra oculista ha sentenziato che il nostro paese deve passare dal principio dello ius sanguinis, chi è figlio di italiani è italiano, al principio dello ius soli, chi nasce in Italia diventa italiano. Di regola, in passato lo ius soli si applicava al Nuovo Mondo e comunque ai paesi sottopopolati che avevano bisogno di nuovi cittadini, mentre lo ius sanguinis valeva per le popolazioni stanziali che da secoli popolavano determinati territori. Oggi questa regola è stata violata in parecchi paesi dal terzo mondismo imperante e dal fatto che la sinistra, avendo perso la sua ideologia, ha sposato la causa delle porte aperte a tutti. La brava ministra ha anche scoperto che il nostro è un paese meticcio. Se lo Stato italiano le dà i soldi, si compri un dizionarietto e scoprirà che meticcio significa persona nata da genitori di razze o etnie diverse. Per esempio, il Brasile è un paese molto meticcio, ma l'Italia proprio no. La saggezza contadina insegnava moglie e buoi dei paesi tuoi, e oggi da noi i matrimoni misti sono in genere ferocemente osteggiati proprio dagli islamici. Ma la più bella di tutte è che la nostra presunta esperta di immigrazione dà per scontato che i ragazzini africani e arabi nati in Italia sono eo ipso cittadini integrati. Questa è da premio Nobel. Più disintegrati di così si muore. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Giovanni Sartori, Integrazione e una catena di equivoci, pubblicata dal Corriere della Sera di lunedì 17 giugno. All'Università di Teramo gli studenti da settembre prenderanno il posto di alcune ditte esterne e svolgeranno, regolarmente assunti e retribuiti, alcuni lavori di mantenimento e servizio dell'università, dalle mense alle pulizie dei corridoi fino alla sorveglianza di alcune aule. Studiare e lavorare dentro l'Ateneo, tra lezioni da seguire e pasti da servire a mensa, corridoi da pulire, giardini da sistemare, lavanderie e biblioteche da gestire. La nuova vita degli studenti dell'Università di Teramo comincia da qui, comincia dal lavoro. Il nuovo rettore, Luciano D'Amico, affiderà agli studenti, scelti attraverso un bando, una serie di servizi di gestione interna fino ad oggi appannaggio di piccole ditte esterne. E quei soldi che prima andavano fuori dall'Ateneo, adesso finiranno nelle tasche degli studenti selezionati per lavorare. Sono stato anch'io uno studente lavoratore e so bene quanti sacrifici oggi compiano le famiglie italiane per mantenere i propri figli all'università, racconta D'Amico. E mi è sembrato giusto, nell'ottica del sempre maggior coinvolgimento dei ragazzi, responsabilizzarli al punto da metterli a gestire anche la parte dei servizi più semplici, ma essenziali della struttura. Loro faranno esperienza, guadagneranno, peseranno meno sulle famiglie e saranno più autonomi. E forse anche più maturi, conclude il rettore. Gli uffici amministrativi dell'Ateneo stanno predisponendo il bando, cercando di stabilire la formula giuridica più corretta non solo per selezionare i candidati, ma soprattutto per assumere e quindi pagare gli studenti che saranno impegnati nei lavori all'interno dell'università. Quel che è certo è che i compensi non saranno ridotti, ma corrisponderanno agli importi dei lavori affidati fino ad oggi in esterno. Tra i servizi che gli studenti si troveranno a gestire, ci sarà anche quello relativo all'apertura dell'Ateneo fino alle 24, a partire da settembre, e alle proiezioni serali dei film, previste proprio per animare le aule anche negli orari successivi alle lezioni. Ma non è solo questa la novità del nuovo corso dell'Ateneo abruzzese. Per finanziare la ricerca, il rettore ha da poco deciso di mettere in vendita alcuni quadri preziosi, che fino ad oggi hanno fatto bella mostra nei corridoi e nelle stanze del rettorato. Alle matricole, inoltre, sarà dato in comodato d'uso un tablet come strumento per supportare la didattica e facilitare la vita dello studente all'interno del campus. Gli studenti lo utilizzeranno anche come libretto per gli esami, carta elettronica per la mensa, accesso alle riviste, riconoscimento, registrazione in aula della presenza. Non miriamo alle eccellenze. Non ci interessa che i nostri studenti siano necessariamente dei fuoriclasse, spiega D'Amico. Vogliamo invece riattivare l'ascensore sociale, fare in modo che tutti i giovani, anche quelli delle classi meno abbienti, possano studiare e avere un'occasione nella vita, come l'ho avuta io. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Caporale, Gli universitari assunti dall'Ateneo, pubblicato da Repubblica di lunedì 17 giugno.